Elia Media. Hanno il tono attivato. Molti media c'hanno. Radio Elia Media. Tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Gnocchi a Prodi, quali trasformazioni sta attraversando Bologna? Quali futuri possibili realizzerà e quali a Prodi scarterà? Se ne parla con economisti, architetti, scrittori e altri sguardi per ipotizzare, analizzare, sfruttare gli approdi possibili e creare un agire in comune. Elia Media. Hanno il tono attivato. Molti media c'hanno. Dal 15 di ottobre, dalle 16 alle 20, in Piazza Pontoni. www.aeliamedia.org. Baraldi, sono qua con Gnocchi a Prodi. Oggi il nostro incontro avrà come titolo percezione degli spazi e scrittura. Come ospiti abbiamo tre ospiti d'eccezione, tre grandissimi ospiti d'eccezione. Uno è Giancarlo Morozzi. Scusa, vedi, ho sbagliato, ma è confusa, la bellezza mi confonde. Gianluca Morozzi. Invece il tuo cognome è tutto il giorno che lo sbaglio, che è Carlo... Claudio Driol. Claudio Driol e Gianluca Zurlini, ok, di scheda di Rizoma Architettura, ex City Lab. Ok, avremo con noi soltanto per mezz'ora la partecipazione esclusiva di Gianluca Zollini, che dopo è impegnato in altri lidi, ma mi diceva che deve prendere un volo per New York, insomma è un po' impegnato. E qui proprio per una cosa specialissima. Allora, l'incontro così particolare, se vogliamo, una prima visione tra uno scrittore e un architetto, in realtà se andiamo a analizzare bene è un incontro ben ricercato, perché forse molti conoscono Gianluca Morozzi e conoscono soprattutto i suoi libri. Prolifico scrittore bolognese, a quanti libri sei arrivato ormai? Direi a 15, così a occhio, approssimativamente. 15 libri? Circa, sì. Di cui l'ultima fatica è Chi non muore. È una fatica molto relativa. Un divertimento. Libri in cui una dei protagonisti preesistenti è sempre Bologna e i vicoli di Bologna, più o meno. Sì, 14 romanzi su 15 svolgono a Bologna, effettivamente, perché è un sfondo molto duttile per raccontare storie. Ci puoi fare quasi tutto su Bologna. Se scrivi un romanzo rock, Bologna va benissimo. Scrivi un romanzo vagamente politico, Bologna è ottima. Scrivi un romanzo comico, è perfetta. Scrivi un noir, quanti noir hanno fatto a Bologna nella storia non si contano più. E se vuoi scrivere un romanzo in cui c'è un ascensore, va bene anche Vigevano, però Bologna perché no, insomma. Bologna è utile, veramente la città ospitale per tutte le occasioni. Ci puoi fare quello che vuoi. Sai, quando vado in giro a presentare libri per l'Italia, mi fanno una domanda sempre, che è: come mai a Bologna si scrivono tanti romanzi noir e tanti romanzi giovanilisti pop? E io do una risposta che non vuol dire nulla in realtà, però piace molto a tutti, che è perché ci sono i portici. E i portici riparano dalla pioggia, ma creano anche delle ombre sinistre. Ora non vuol dire un cavolo, però è tanto bella questa risposta, tutti quanti sono così contenti di questa risposta che do. Funziona un sacco. Per quello. Però è bello. Però mi piace come risposta. Infatti tu rappresenti spesso i vicoli, i portici di Bologna, ciò che è anche un certo tipo di bolognesità, che è abbastanza particolare, che non è mai tra l'altro stereotipata, anche quando effettivamente ce la immaginiamo così, ma ce la immaginiamo così perché Bologna è così. Molte volte i cliché sono cliché perché sono veri, tante volte. Ora, io cerco sempre di non essere il caricaturale, e quando lo sono lo dico. Ci dichiaro, questa sembra una caricatura, però è così. Bologna lo posso raccontare in 104.000 modi diversi. A volte sono uno sfondo, io poi non sono un sociologo, per cui non è che devo raccontare la fauna urbana da un punto di vista praticamente approfondito. Metto dei personaggi in uno sfondo, li muovo davanti a quello sfondo e vedo come si comporta lo sfondo in questione. Tante volte è solamente una questione di ambientazione, certe vie sono più suggestive di altre. Se quando scrivo Via dell'Inferno, uno legge a Bari, dice che bello, il nome si è inventato. No, no, è Via dell'Inferno, si chiama Via dell'Inferno. Via senza nome, perché si chiama senza nome? È perché si chiama così. Veramente, sì sì. E quando raccontavo un certo scorcio di Bologna in cui ci sono di fronte, so, via Belfiore e via Cresta di Lupo, questi nomi inquietanti, contrapposti tra di loro, via Cassa Elvatica e via quello della neve, cioè cose tenere, cose durissime, che sono uno di fronte all'altro sempre. È molto inquietante da raccontare, molto divertente, è una toponomastica particolarissima, secondo me. La toponomastica è splendida di Bologna, ha mantenuto tutto quello che sono gli influssi medievali. La seconda via del Fossato, io fregatette una volta. Questa non la sapevo. Se guardi via del Fossato, che è vicino alla Sodella, c'è ancora il vecchio cartello sotto, fregatette. Fregatette. Sì, poi c'erano i bordelli. Sì. Ah. E io abitavo lì, peraltro. Non perché. Spiegherà. E da lì è iniziato tutto. Spiegherà molte cose, secondo me. E nasce Cesare Cremonini, penso, via del Fossato. Non so se rendo l'idea. Vabbè. C'erano i bordelli, quindi era un po' una via equivoca. Via senza nome, che è di fianco, cosa avrà fatto per essere neanche col nome addirittura? No, c'è una leggenda, ma ci sono delle storie vere, no, però. No, racconta! No, in realtà pare che fosse una famiglia senza nome, però è così bello pensare che il Fossato c'erano i bordelli e comunque va il nome Fregatette. E in senza nome cosa c'era? Torture, desadde, cosa accadeva senza nome per essere innominata addirittura? C'era qualcosa di molto molto strano, si parla anche di una Bologna in mano al Papa forse. Se no ci vado a cena in quella via, quindi scoprirò delle cose in diretta se esco vivo da quella via probabilmente. Ma com'è? Oddio, ma mi devo preoccupare per te. Ma guarda, ormai sono scampato a mille trappole. Ma com'è cambiata la fruizione degli spazi di Bologna? Sai, molte volte la fruizione la cambi perché non è più 26 anni, non sei più studente fuori corso e ne hai 40 e fai altre cose, vedi altri posti, altri spazi, infatti si spostano. Io odio profondamente quelli che dicono a Bologna non è più quello di una volta, e Brizzi risponderebbe sì, perché tu sei quello di una volta, sei uguale come una volta, per nulla cambiato. Tante volte solamente la percezione dell'osservatore cambia i luoghi, in realtà si spostano, si modificano, come è ovvio che sia. Non sono un passatista né un nostalgico, pur avendo i miei bei 40 anni appena compiuti, 39 anni e 16 mesi. Più bello? Sì, piccolissimo, infatti. La musica. Che si sente la musica? No. No, era ciao, parlando con lui che va via. Sì, era quello che ci stava seguendo e accompagnando. Io ho introdotto quindi il lavoro di Morotti. Forse non si sente più fuori. Ma non è che spegnendo la musica abbiamo spento anche. No, sono dicevo con parlando di fruizione, quindi di come percepissi lo spazio, come percepisse lo spazio uno scrittore, come percepisse lo spazio un cittadino, in questo caso secondo me non ci stiamo sentendo, Cat. Ma scusa, comunque ci stanno registrando. Questo non ci sono tutti, ci stanno registrando. Però io non capisco perché quando parli tu non si prova col microfono. Sì, si sente. Ah, questo funziona, perfetto. Pronto? Sì. Passiamocelo. Katia, prova con quello, parla con okay. quello. Sì, mi senti? Allora. Sì, ce lo passiamo. Scusate. Stavo dicendo che appunto la funzione cambia a seconda anche dell'età, a seconda anche di quali sono le necessità. Su questo punto ci può dire qualcosa il nostro Gianluca Architetto, che secondo me ha fatto un'esperienza molto interessante in passato. Mi ricordi l'anno? Nel 2003, si chiamava appunto City Lab, ci chiamavamo ancora City Lab, adesso abbiamo cambiato il nome, si chiama Rizoma Architetture, e uno studio, un co-working insieme a un altro studio di architettura che ci sarà il 27 ottobre, ciclo stile. E, sì, nel 2003 eravamo City Lab, eravamo stati incaricati dal Comune di Bologna per studiare gli spazi urbani di Bologna stessa, un master plan che comprendesse sia la città storica ma anche la periferia di Bologna. E, il progetto era molto interessante, quasi un progetto molto coraggioso, spagnolo direi, anzi catalano per essere più precisi, dove si faceva un'attenta analisi dei fruitori degli spazi pubblici di Bologna. E quindi erano interventi esclusivamente a capire qual era la conformazione innata oppure spontanea, diciamo, di questi luoghi. Interventi come appunto ti spiegavo prima e spiegavo anche a Gianluca, che non prevedevano chissà che grande stravolgimento delle infrastrutture o inserire nuovi limiti o spazi urbani da capogiro o da grandi archistar, ma erano semplicemente un modo per capire come le persone utilizzano gli spazi a Bologna. E questo succede in qualsiasi mondo, cioè in qualsiasi città, ogni posto, ogni angolo. Mi viene in mente Genova che ha dei vicoli strettissimi e loro chiamano piazza tutto quello che è leggermente più largo di 3 metri, e mi viene da dire che a Bologna qua di spazi di aggregazione ce ne sono tantissimi. E il nostro lavoro prevedeva appunto un'analisi dettagliata dei corridoi, delle piccole, delle micro piazze, delle medie piazze e delle grandi piazze, e quindi quasi una forma di urbanistica camminata, cioè una visione di panchina, albero, illuminazione, un piccolo arredo urbano o semplicemente una striscia per terra. Molto interessante, peccato che non è stato particolarmente fruttuoso in quanto non è andato avanti, però abbiamo avuto grandi soddisfazioni perché poi nel 2004 è stato presentato alla Biennale di Architettura di Barcellona sullo spazio urbano. Era un progetto che quindi teneva in considerazione su come le persone utilizzavano realmente lo spazio, veniva incontro a delle esigenze più mirate. Appunto, ti facevo prima un esempio che non ci vuole granché per capire come funzionano gli spazi, basta vedere i suoi fruitori. Questo, anzi, Gianluca potrebbe essere molto più bravo di me, però appunto ti raccontavo un esempio molto semplice: in piazza 8 agosto ci si trova spesso a giocare a frisbee o a fare delle micro partite di basket, basterebbe mettere un canestro sopra quel totem, a quella pietra nera che hanno inserito al centro della piazza, per farlo diventare un campo spontaneo. Due panchine in più, un albero, perché purtroppo una delle cose che volevo dire prima a Gianluca è che Bologna è tutto tranne che una città verde, mi viene da dire. Il verde esiste esiste veramente poco, cioè spazi realmente dove poter prendere, cioè, a parte parlo nel centro storico, perché appena fuori c'è Giardino e Margherita che sono meravigliosi, però all'interno difficilmente uno può stare sotto l'ombra di un albero o su una panchina a leggersi un libro, e cosa che per esempio in altre città dell'Emilia Romagna magari questo si trova, forse perché è stata troppo saturata, ecco, è una urbe veramente urbanizzata, mi verrebbe da dire. Comunque sì, gli interventi erano dati proprio da un'analisi attenta di quello che era la visione spontanea, di quello che erano gli usi spontanei delle varie strade, delle varie piazze. Poi tutto si concentrava su Via delle Moline, su quella zona lì che è stata una delle prime. Adesso il sindaco ne sta cercando di introdurre altre pedonali, insomma, dove di macchine se ne vedono poche. Purtroppo uno dei problemi di Bologna è quello che le macchine sono a stretto contatto con i portici e con i suoi fruitori, cosa che Ferrara per esempio ha fatto già 15 anni fa, e infatti è una città ultra vivibile rispetto a Bologna, che invece non ha capito quanto fosse importante salvaguardare i suoi cittadini, oltre che i muri storici di questa bellissima città. Vedo un Gianluca che dice sì con la testa, vuoi dire qualcosa come cittadino di Bologna, mi sembra il caso. No, mi piace, Gianluca l'ho conosciuto poco fa, mi dispiace non conoscere nulla di lui, però mi sono letto tutto quello che potevo leggere veramente un'ora fa, sembra un amico che potresti, con il quale potresti comunicare per tutta una sera, ecco, a cena con una bellissima bottiglia di vino davanti. Penso che sia una delle cose più interessanti. Se volete organizziamo, ecco, ecco, calma. Sì, io spero che non finisca qui, appunto. Dopo New York, appena mi libero devo guardare un attimo l'agenda, però ecco. Soprattutto in New York, che amo tanto come città, è così bella, molto invidia perché te vai a New York, soprattutto. Sì, Bologna ogni volta era freddo. Sì, per questa cosa adesso siamo. Beh, no, guarda, sono fatto 2 anni fa, era il primo di novembre, è stata una scena molto bella. Qui eravamo a Coney Island, era un giorno di novembre, ma col sole. Beh, penso. Non era freddissimo, però eravamo tipo noi bolognesi con i giacconi e le sciarpe, e c'era la gente in spiaggia in costume da bagno. Perché questo contrasto fra gente in sciarpe e gente seminuda praticamente era molto interessante. È un po' come vedere il Babbo Natale ad agosto. Sì, era una cosa del genere. Comunque diceva Bologna, ogni volta che chiudere mezza strada al traffico sembra che i commercianti siano tutti quanti falliti improvvisamente, perché il fallimento, le macchine non possono entrare, falliremo tutti. A me sembra il contrario, cioè io non sono un commerciante, quindi non voglio dire cose assurde, però mi sembra che la gente vada così più volentieri passeggiando, via d'Azeglio e pedonale da sempre, praticamente la parte verso il centro, e mi sembra via non proprio poverissima e in rovina. Assolutamente. No? Per cui anzi, un esempio classico abbiamo proprio qua in via d'Azeglio, però pare che pedonalizzare sia la fine, la catastrofe, moriremo tutti e cose del genere. La cosa strana è che però Bologna è una città quasi fatte per i pedoni, nel senso, grazie ai portici, ma non solo ai portici, cioè le persone si spostano molto a piedi, sono più abituati che altri dovrebbero sì. Sì, ma non è limitare le persone, perché appunto di persone che camminano a piedi ce ne sono tantissime, anzi è proprio una città per camminare, come dicevi tu. Il problema sono le macchine. Uno studio dell'ARPA, anche se poi non ufficializzato, diceva che appunto i posti più pericolosi dove c'è una concentrazione altissima della CO2 e delle cose particolari sono proprio i portici, che diventano dei veri e propri delle vere e proprie camere a gas. Quindi mi verrebbe da dire che allora è meglio camminare in strada e farsi investire dalle macchine piuttosto che stare sotto i portici. Però questa è una provocazione, noi architetti anzi viviamo sempre di assurdo e quindi questo è poi il nostro mestiere. E purtroppo io non posso esimermi da essere critico e da fare un'attenta analisi a questa città. Mi rendo conto che era una città all'avanguardia negli anni 70-80 e adesso è una città che si sta chiudendo su se stessa, e forse proprio perché, come diceva Gianluca, non c'è una grande ricezione da parte di chi la vive e che soprattutto ci campa, quindi i commercianti stessi, a capire quali siano le scelte giuste. Credo che anche sia un problema molto legato a delle scelte coraggiose, perché le scelte coraggiose fanno sì che poi dopo qualche anno la vita e il welfare di una città cambi totalmente, ecco. Mi piace molto vedere che la fauna che circonda questo luogo, che ci gira intorno e ci guarda, ma c'è Claudio Triol che di spalle all'ingresso, colpiranno prima lui, abbiamo messo lì come... Sì, perché ricordo che siamo in piazza Pontoni. Gente molto strana che gira intorno, ma alcuni passi generici molto interessanti guardano dentro. Ecco, Triol si è spostato timoroso per vedere chi lo ucciderà. No, non è vero, in realtà sono persone molto, molto pacifiche, non abbiamo avuto fino ad ora grossi problemi, la gente passa, è interessata, si incuriosisce, ascolta 5-6 minuti, come di solito farebbe con la radio normale a casa, 5-6 minuti su un pezzo di radio, poi si cambia su un altro canale e via. Prima è arrivato un signore con gli occhialetti spessi a filini, si è appiccicato alla parete, guardava dentro con occhi spauriti. Beh, sì, ci credo. È un UFO. Forse è un UFO, sì, anche secondo me. È un UFO. Ma altri progetti simili potrebbero essere fatti su Bologna, in cui questa attenzione... Dicevo... Altri progetti simili di questo tipo si potrebbero fare, sempre progetti come quello realizzato su Tempo City Lab potrebbero essere ripresentati? Sì, anzi, mi verrebbe da dire che dovrebbero essere fatti perché è una città dalle grandi sfaccettature, dalle molteplici sfaccettature, e riuscire a mettere a sistema tutte le varie particolarità di questa città forse la renderebbe una città meravigliosa, anzi fin troppo forse mi verrebbe da dire. Però ecco, se penso a una mobilità un pochino più ridotta, se degli spazi pubblici un pochino più spagnoli, a quello che poi è Bologna, perché comunque è una città giovanile, appunto, dove potrebbero essere ambientati mille storie, io dico che dovrebbero essere fatte, anzi spero che vengano fatte il più presto possibile. Noi come architetti, purtroppo anche giovani, che è una grandissima discriminante per questa professione, anzi dobbiamo inventarci, tant'è vero che questo lavoro era partito più da noi che dall'amministrazione stessa, cioè siamo stati noi a proporci come studio che voleva analizzare gli spazi pubblici di Bologna, e di lavoro ce ne sarebbe da far lavorare praticamente quasi tutti gli studi di Bologna, e ce ne sono tanti e anche di molto bravi, cioè, e quindi più che altro bisognerebbe essere coraggiosi e avere intenzione di voler cambiare la città stessa. Questo è prima di tutto il primo processo. Cambiare con le varie cambiare il rapporto con le varie amministrazioni, cioè fare sì che amministrazioni siano magari più recettivi nei confronti dei propri cittadini, non poco prima di te c'era un tuo collega di un altro studio di architettura che anche lui diceva che in effetti c'è molti progetti calano dall'alto. Il vostro progetto era un progetto invece ispirato a quello che già si stava creando in quella realtà, dal basso, quasi una prepartecipazione. Sì, tanto è vero che poi piano piano quegli indirizzi, quelle scelte che avevamo fatto noi sono state riprese, anche se in maniera troncata e monca, dall'amministrazione, che ha deciso di forse spendere poco, mi viene da dire, e quindi ha voluto salvaguardare più l'economia di una città piuttosto che l'aggregazione sociale che potrebbe esserci in questi posti. E purtroppo però questo fa sì che poi le città non siano particolarmente fruibili, oppure non siano perfette, oppure non si parla di perfezione in questo caso, ma se noi riusciamo a vivere bene, se uno è contento di poter scendere in una piazza e di leggersi un libro e star lì spensierato, credo che sia la risposta giusta a quello che dovrebbe dare un'amministrazione per i propri spazi. Se invece uno scende giù e si trova nel degrado, non trova nemmeno una panchina dove potersi sedere, e per giunta è sporca e la piazza è malandata, oppure gli parcheggiano di fronte una macchina o per poco non lo mettono sotto, credo che difficilmente si potranno avere spazi decenti in questa città. Ma infatti mi ricordo che in passato Bologna veniva detta degradata semplicemente perché c'erano i graffiti sul muro, cioè fu un gran polemico, ma forse in realtà il degrado è altra cosa che non solo è anche il modo in cui tu fruissi degli spazi o non fruissi degli spazi. Ecco, poi la fruizione è molto importante, cioè nel senso che la fruizione non deve essere legata a una fascia sociale, cioè non si parla che a fruirla devono essere soltanto i giovani, perché le attitudini di Bologna è una città, quindi Bologna è una città giovanile, allora devono fruirla soltanto i giovani. No, la città deve essere vissuta da tutti, cioè dai bambini come dagli anziani, e quindi questo significa appunto superare gli ostacoli, nel caso del degrado o nel caso in cui non ci fossero degli spazi per far sì che gli anziani possano tranquillamente stare a stretto contatto con i giovani, cioè non la vedo nulla di male, non vedo nulla di male in queste cose, anzi credo che lì riuscire a trovare un mix di utenti sarebbe la cosa migliore, lì avremmo quasi risolto il problema. Infatti uno dei prossimi incontri che si tratterà sarà appunto, tratterà anche il tema della partecipazione, vedrà confronto sociologi, un responsabile di ciclostile che tu dovresti conoscere bene perché è il tuo collega, il tuo socio, il mio co-working. Quindi sarà il 27, ci sarà anche tra l'altro l'assessore Lepore, insomma, una situazione piacevole, se ti vuoi unire a noi sei il benvenuto, assolutamente. Però temo che il tempo a nostra disposizione che ci potevi concedere sia quasi posso terminato. Altri 10 minuti, poi parte l'aereo appunto. Ora fosse meglio che ti lassi andare, intanto metto su un pezzo di Vincenzo Sconza che si chiama La città di metallo. Sì, ma infatti non voglio. tutti, siamo ritornati. Quello che avete appena sentito era una piccola pillola della Città di Metallo di Vincenzo Scorza, un bravissimo lui è bolognese. Io direi di partire sulla seconda parte del programma, che è dedicato quindi alla scrittura, agli scrittori bolognesi. Quindi parliamo con Carlo e Claudio. Sbaglio tutto oggi. Scusate, Gianluca non è un problema. No, figurati, siamo troppo belli per sì. Non turbarti un po'. Claudio e Gianluca. A finire che mi sbaglio, sono 5 anni che ci conosciamo, sì, e infatti. Sbaglio l'ora, è terribile la cosa. No, bene. Che intanto ci racconteranno un'esperienza che stanno facendo insieme, che è Canto 31, che è un'associazione cosca di scrittori bolognesi. Cosca è la parola giusta, no, veramente, siamo un'associazione per delinquere culturale. Sì, proprio. Infatti ho visto dal sito che è abbastanza pericoloso, ci sono vari elementi inquietanti. Parecchi inquietanti. Tutto ciò mi inquieta tantissimo, infatti dovrò venire a vedere con rischio e pericolo, ma forse conoscendo voi due, forse riesco a uscirne fuori. Riuscirai a salvarti. Con calma. Salutiamo intanto Gianluca. Sì, ciao caro. A presto, ciao, grazie ancora. Allora, Claudio ha praticamente ideato in compagnia di una dolce fanciulla Canto 31, quindi penso ce ne parlerà sì, giustamente ce lui. Vuoi, esatto, ce ne vuoi un po' parlare di cosa si tratta e anche della particolarità, perché di solito non si sentono parlare tanto di associazioni culturali per scrittore. Ma allora, guarda, Canto 31 innanzitutto... Canto 31, non Conto 31, che ogni tanto qualcuno dice Conto 31. Conto 31. No, Canto 31 innanzitutto è praticamente un'associazione che nasce dedicata alla nostra città, proprio al fatto che Bologna è la dotta e la grassa, quindi noi, tutto un insieme di menti malate trentenni hanno voluto fare un omaggio e ridare indietro un po' di quell'energia positiva che ci ha cresciuto. Siamo cresciuti a Bologna e quindi abbiamo aperto questa associazione culturale. Canto 31 appunto è il 31esimo canto dell'inferno, dove Dante nomina Bologna, esatto. La Garisenda, e all'interno con questa associazione appunto facciamo varie cose con cui appunto Gianluca collabora con noi, in primis un corso di scrittura creativa. Sì, la creazione di altri personaggi inquietanti per Bologna. Tantissimo inquietanti alcuni, ti assicuro. Esattamente, esattamente, solo delle piccole creature incontrollabili proprio. E comunque no, questi corsi di scrittura creativa finora abbiamo fatto, sono due livelli per ora, un primo livello di base, dove gli vengono fornite le nozioni... Dialogo, incipit, finale, soggetti, idee... Tu poi sai, io di questo non posso parlare bene perché sono stato un corsista di questo corso. Sì, Claudio è nato come corsista nel primissimo corso, del peggior allievo del corso. Il peggior allievo del corso, mai fatto un compito. L'ultimo della classe. L'ultimo della classe. E ha scavalcato completamente il livello. Quindi ora è adesso diventato il tuo capo. Pensa. Esatto, è la creatività è spostata in altri modi. È un simbolo. Hai voluto rifare. Parti su di lui. Esattamente. Ho capito. Avete capito, vero, come sono le dinamiche degli ascoltatori? Perché io sono preoccupata. E dopodiché c'è anche un secondo livello. Esattamente, adesso abbiamo in atto un primo livello che è cominciato da 2 settimane a Capo di Lucca. E da Feltrinelli invece stiamo facendo il secondo livello. La cosa particolare di questo secondo livello è che appunto questi aspiranti scrittori fanno tutto un percorso di 8 lezioni che li porterà a produrre un racconto che verrà inserito all'interno di un'antologia che viene pubblicata da Giara Edizioni, possiamo dirlo, e quindi un vero libro, cioè non diamo nessun attestato, cioè fanno proprio una prova, vanno a presentare questo libro, toccano. Anzi, lo presentiamo mercoledì, peraltro. Esatto. La vecchia antologia 2012, non solo Maia. La presentiamo alla libreria Ernerio mercoledì prossimo alle 18:30. Quello del corso dell'anno scorso, sì. Benissimo. E questa è una delle, attività, delle attività che, esatto, che stiamo facendo. E per il resto so che per c'è il resto abbiamo una rassegna. Una rassegna, esatto, che stiamo facendo al Divinis in via Battibecco tutti i secondi mercoledì del mese. Ed è sono 8 incontri con vari scrittori italiani che invece di parlare di loro, per una volta ci parleranno di, del loro scrittore preferito. Quindi che li ha ispirati un giorno a dire: ah, ma se è buono lui, sono buono anch'io di scrivere delle cose che possono emozionare delle persone. Infatti due mercoledì fa abbiamo avuto Gianluca che ci ha parlato di scrittori, Stephen Bateman e Stephen King. Richard Bachman e Stephen King, che poi dopo hai scoperto essere la stessa persona dopo svariati anni. Innamorato di lui. Non sapevo fosse la stessa persona all'inizio, poi ho scoperto che erano sempre lui. Infatti piacevano entrambi uguale, cioè bravi entrambi, non so chi è meglio dei due, sono la stessa persona. Prossima volta c'è. Esatto, mercoledì, poi proseguiamo con mercoledì 9 novembre, dove avremo ospite Enrico Brizzi che ci parlerà di Pier Vittorio Tondelli. In dicembre invece il bolognesissimissimo da curva proprio Paolo Alberti che ci racconterà Joe Lansdale. E poi così a gennaio abbiamo Lorenzo Arabia che ci racconterà Federico Fiumani, a febbraio la parte letteraria di Fiumani ci racconterà, esattamente, ma vabbè, che poi i musicisti comunque, se Bob Dylan comunque ha vinto un Nobel, era candidato, non ha vinto, candidato. Io cioè penso che comunque la composizione musicale ho scritto 4 libri Fiumani, quindi infatti rientra perfettamente in questo poi tema. A febbraio abbiamo invece Berselli che ci racconta Jonathan Franzen, marzo avremo Marilu Oliva che ci racconterà Gabriel García Márquez, aprile Fabio Rizzoli con Anthony Burgess e in maggio Daniela Bortolotti che chiude la rassegna ci racconterà Andrea De Carlo. Dopo ovviamente aver parlato, cioè poi a questi scrittori non lasciamo molta libertà artistica, quindi non è poi detto Gianluca ha parlato e ha avuto anche una conturbante lettrice come accompagnamento. Il napoletano ci raccontava Stephen King arrampicato su una scala, sì. E dopo sì, vedremo adesso Brizzi come ci presenterà Pier Vittorio Tondelli. Se non venite al Divinis non lo scoprirete. Esatto, perché era ammurato di gente l'ultima volta, quindi però, figurati però. Con Brizzi, ma com'è lo scrivere a Bologna adesso, com'è la scrittura della vostra generazione di scrittori, di voi bolognesi, perché Bologna comunque è caratterizzata da una buonissima tradizione di scrittori, anzi, come dicevi tu prima, viene quasi riconosciuta per la scrittura. Ti dirò, è abbastanza libera, nel senso che non si rifà più tanto a imitazioni di vecchie scuole, non c'è più per forza l'obbligo di entrare in un corrente post-tondelliana, gli Andrea 25 o cose del genere, oppure di entrare nel filone noir, oppure di copiare evangelisti, insomma, oppure fare l'ucronia alla Wuming. Siamo molto liberi. Adesso c'è stato un momento Paolo Nori, tutti quanti imitavano Paolo Nori, io compreso peraltro, anzi per primo. Ora ognuno fa un po' le sue cose, ma una cosa che mi piace molto sottolineare è che non c'è molta rivalità tra scrittori bolognesi, anzi, quando possiamo incontrarci e fare le cose insieme, facciamo tutti molto volentieri. Una persona molto carina tutti quanti, devo dire, per cui ognuno fa i suoi percorsi, però quando possiamo fare le cose parallelamente lo facciamo veramente volentieri e con piacere, che non è poco secondo me. Ma infatti è una cosa che ho notato, che forse questa è tipica della bolognesità, cioè del trovarsi, chiacchierare tra scrittori anche che magari hanno linee e poetiche completamente diverse, però avere sempre comunque un punto di incontro e di confronto. Questo forse magari in altre città non c'è, forse, o perlomeno sembra essere. Guarda, come quando c'era il grunge a Seattle, tutte le band erano tutte amiche, e i Ramones dicevano: ma come siete amici? Noi a New York ci vediamo tutti quanti, le nostre band si odiano una con l'altra. Esatto. Noi siamo un po' a Seattle, secondo me, in questo senso, cioè tutta grande amicizia reciproca, grande collaborazione, grande stima. Ma è sempre stato così, o è soltanto la vostra generazione che magari in qualche modo, vostra generazione fosse anche un po' generalistico dire così, però magari siete voi che siete insomma, una particolarità che, oppure in generale a Bologna funziona così, è sempre funzionato così. Forse abbiamo, cioè, prima non c'ero, quindi cioè, non scrivevo fino a 10 anni fa, per cui non so dirti esattamente com'era l'ambiente, non saprei. Posso dirti che l'idea di essere gente che fa libri in un paese in cui non si legge praticamente nulla e si legge e leggono cose discutibili, e ci dà un po' l'idea di essere degli eroi combattenti in un piccolo varco. Ma infatti un po' vi lancio una provocazione, non è manco anche il fatto che la vostra associazione di per sé è splendida, e dico per fortuna che esiste, perché non avevo mai sentito parlare di un'associazione dedicata agli scrittori, ma non è forse anche un rischiare di un po' chiudersi anche per... Tu cosa pensi, cioè, Claudio? Forse bisogna anche trovare un modo per provare ad aprirsi ulteriormente e incentivare, o no? Ma sì, ma alla fine, cioè, penso che uno quando scrive, cioè sicuramente adesso uno scrive anche per se stesso, ma soprattutto per comunicare le proprie emozioni, e io penso che con le cose anche che facciamo, con il riscontro nella gente che abbiamo, e poi soprattutto vedendo che gli scrittori partecipano assieme a tutte queste cose, cioè c'è voglia di stare insieme. Io non la vedo come una chiusura. Ma vuol dire una cosa, scusami? Che non è un'associazione, no. Esatto, per scrittori, sì. Cioè nel senso siamo un'associazione culturale, esatto. Che lavoriamo molto con gli scrittori, ma proprio perché abbiamo visto, ma secondo me non è una cosa della generazione nuova di scrittori, è una cosa della nostra generazione, cioè siamo esseri umani e dobbiamo fare le cose assieme, per cui io la vedo normalissima che degli scrittori collaborino su dei progetti, perché comunque è un ampliare il bacino di utenza, cioè è fondamentalmente uno scrittore scrive perché vuole che la gente legga i propri libri, per cui più gente viene a conoscenza, adesso non lo so, una joint venture negli eventi, c'è un Berselli, c'è un Morozzi, cioè magari c'è il fan di Morozzi che non ha mai letto un libro di Berselli, in quell'occasione gli piace, idem il contrario, cioè io credo molto in queste cose. Perché poi alcuni eventi fatti da Canto 31, che erano le cene, sono cene a tema, tipo cene noir con letture di libri, due noir. Autori con libri noir, la cene gialla, la cene... Passion, ce n'è rosa. Wow. E queste cose mettono insieme vari artisti, a parte non solo scrittori, comunque hanno coinvolto anche musicisti, fotografi, quindi a vari campi artistici. Tengo a dire che Can 31 è fatta da due persone, che sono il preside Claudio Driol e la signorina Rockemeyer, Serena Scandellari, che salutiamo, se no subiremo conseguenze esattamente gravissime. Verremo fustigati la signora Rockemeyer, notoriamente. Salutiamola. Esatto, ci colpirà. Quindi comunque non è solo una cosa di scrittori, è una cosa comunque legata a vari tipi di artisti e non chiusa in se stessa, soprattutto. Cerca più di aprire che di chiudere, secondo me è una cosa del genere per come è fatta. Io lo dico da collaboratore, non da fondatore, ma insomma so benissimo come funziona tutto questo, per cui... è una cosa molto bella che hanno fatto, è anche la famosa Libreschi, in cui hanno abbinato veramente vino e letteratura in un modo esemplare. Libreschi è un gioco di parole sottilissimo, finissimo, libri ubriachi, perché lì sobri venivano lì sobri. Com'era la dinamica del percorso? Esatto, è un percorso degustativo dove invece che il classico abbinamento vino-cibo che ormai sanno fare tutti, abbiamo pensato di dare in degustazione ai partecipanti appunto il classico vino, però intanto che assaporavano, quindi erano invasi dalle sensazioni del nettare di Bacco, e un attore faceva degustare anche il romanzo abbinato a questo vino, ma che proprio è insito nell'anima sia del vino che del romanzo, cioè le emozioni che ti può suscitare in vino, il vino che stai assaggiando abbinato alle emozioni che ti può suscitare un romanzo. Come si fa a abbinare un vino a un libro? Di solito, pensa lui. Di solito lo si fa con la musica, forse... Dici la musica con... Ma alla col fine... libro, se vieni col vino, non lo so, con fondamentalmente sapore... devi andare a... Ci vuole molta fantasia innanzitutto, però devi andare a scomporre proprio come tu, cioè se riesci ad abbinare una canzone, la canzone l'abbini a un romanzo, magari stai leggendo un romanzo d'amore, la canzone d'amore alla base c'è la stessa sensazione, le stesse cose che provi, idem per il vino. Quindi facciamo un esempio, vabbè, mi viene in mente l'esempio più banale proprio, no, facciamo qualcosa di più complesso. Un romanzo magari fresco, leggero, giovane può tranquillamente essere abbinato a un prosecco, perché comunque... E non è detto che sia soltanto la semplicità, perché magari un prosecco può avere delle note dietro un pochino più complesse, come anche un romanzo magari scritto da un'attrice giovane può generare queste cose. Questo è un esempio, poi un altro può essere un romanzo noir, lo abbiniamo a un bel sangiovese rosso, corposo, l'idea del sangue è centrale. Cioè, ma c'era anche Brizzi come autore di libro, c'era un suo libro? No, Brizzi verrà a fare, la scrittore di origine di Vinis. No, non c'era. E invece Morozzi c'era? Sì, certo. Sì, Morozzi. A che vino... O te lo sei salto tu in quel caso? Claudio sceglie vino. No, esatto. Abbiamo abbinato il tuo scorso romanzo, poi Cicatrici, che era protagonista di un abbinamento che si chiamava Il Tempo, che era lo scorrere del tempo affina alle caratteristiche di un vino e la bellezza di una trama intricata. Ed era abbinata a un Merlot dei Colli Bolognese, che appunto è un vino rosso che col passare degli anni... affina le sue caratteristiche, idem il tuo romanzo Cicatrici è comunque una storia che si svolge nello scorrere del tempo e si affina proprio, vai più vicino alla verità più scorri anche le pagine della trama, giustamente, quindi sono cose così molto a sensazione proprio. La cosa bella è che il percorso eno letterario è una specie di tappe, no? Si passa da uno scrittore, si beve, si leggono le pagine, si compra il libro se si vuole. In genere l'ultimo scrittore vende sempre un sacco di libri. Sì. La gente è completamente ubriaca a quel punto. Sì, è bellissimo, questa cosa che hai scritto. Quindi l'ultimo scrittore è molto avvantaggiato. Mi sa che forse era una mossa strategica che lui avrà anche voluto. Arrivi completamente storto e acquisti. Questa cosa di abbinamento mi ha fatto venire in mente una lettura di cui però non ricordo adesso dove e come l'ho letto. Comunque parlavano di una docente statunitense che all'interno del suo corso di laurea in letteratura, soprattutto letteratura inglese, affiancava ai libri del cibo, perché dice che secondo lei il cibo, certi tipi di cibi sono perfetti per altri tipi di libri, tanto che aveva ad esempio lei faceva l'esempio di un romanzo abbastanza forte per dei ragazzi giovani, gli aveva dato da sentire del cioccolato. E alla lettura quindi dell'Ibnis unito al questo tipo di cioccolato un po' piccante, un po' forte, i ragazzi addirittura erano stati disgustati, perché per loro questo tipo di cioccolato non era adatto al libro. E diciamo, e forse perché il libro stesso non era magari adatto alla loro età, perché è un libro che viene maggiormente apprezzato con l'aumentare dell'età, perché lei invece aveva fatto la stessa prova con delle persone più adulte. E invece altri accoppiamento di cibo e libri non sono stati effettivamente azzeccati, c'era questo il forte legame quindi anche con il cibo, quindi una scelta di cibo particolare per il libro in particolare. Se riesco a ritrovare l'articolo ve lo segnalo. Grazie mille. Comunque c'è Claudio che è il nostro sommelier ufficiale, quindi è lui che ha fatto degli abbinamenti adeguati a vino, libro e ognuno ha il suo preciso compito in questo ambito. Okay. E comunque non mancate il 9 novembre al Divinis a ubriacarvi con Brizzi e parla di tondelli. Devo venire. Devi venire per forza, non puoi mancare venire. Assolutamente. Tra l'altro oggi molte persone volevano venire perché sentivano c'è Morozzi e ho scoperto che hai tantissimi fan. Io li amo tutti, li ringrazio tutti quanti, li bacio uno a uno. Idealmente. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Perché siamo quasi agli sgoccioli, sono le 18:55. Allora, ci metto intanto, ci metto un pezzo di Vincenzo Sconza, che questa volta ce lo ascoltiamo tutto, si chiama Parte 1, Nervous Flux, di The Misfit Audio Fluxit. Al termine della puntata io vi saluto e vi do appuntamento con la mia puntata di Gnotti a Prodi il 27 di ottobre, che parleremo di partecipazione, tra le altre cose. Avremo degli ospiti molto interessanti, vi chiedo di partecipare e ascoltare. Penso che per quel momento potremo avere anche il collegamento con la mail, quindi vi inviterò a scrivere. Intanto vi lascio la mia sigla e vi lascio anche con Giorgia e i suoi ragazzi del 77. Elia Media, un'alternativa multimedia channel. Radio Elia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Gnotti a Prodi, quali trasformazioni sta attraversando Bologna? Quali futuri possibili realizzerà e quali approdi scarterà? Se ne parla con economisti, architetti, scrittori e altri sguardi per ipotizzare, analizzare, sfruttare gli approdi possibili e creare un agire in comune. Elia Media, un'alternativa multimedia channel. Dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. www.aeliamedia.org.